Col GR di Radio Popolare si rientra in studio oggi un quarto d'ora prima del Move to Groove, insieme alla rubrica Altri suoni, suoni inconsueti, suoni che portano quest'oggi due fili conduttori e intersezione trovata qui in maniera autonoma, se vogliamo, ma secondo me molto attinente. Ieri la presentazione della stagione 2023-2024 al Torrione, che avrà una continuità, certo, ma anche qualche curiosità sottesa. Di questo ne parleremo meglio al Jazz Live nella giornata di venerdì, con la prima puntata di stagione. Per Altri suoni, Angelica, la rassegna che porta dei contenuti che, a proposito di curiosità, potranno soddisfare i palati non solo più raffinati, ma appunto anche più intraprendenti nella ricerca musicale. Mettiamo assieme queste sensazioni e troviamo una label, la Thirsty Ear Recordings. Queste orecchie curiose, ma tradotto letteralmente orecchie assetate, è una label che nasce sul finire degli anni 70 con ricerca nella musica alternativa e una ricerca continua in tutto ciò che è black music e non solo, tanto più che all'inizio degli anni 90 sposta la sua attenzione sull'elettronica, sull'ambient, sul noise, sull'industrial. Pensate, poi una sorta di rientro ulteriore mettendo assieme, se vogliamo, questi aspetti, e sarà di ricerca jazzistica. Quindi un insieme di autori come William Parker, come Evan Parker, tanti altri musicisti, vada da Leo Smith, posso aggiungere, che trovano DJ Spooky, altri musicisti di elettroniche alternative pop, l'Antipop Consortium LP. Ecco, immaginate questo insieme e secondo me troviamo le due linee dei programmi che appena presentati e portati poi sulla frequenza di Altri suoni. Iniziamo con un collettivo che è Spring Hill Jack. Questo collettivo, che nasce a metà degli anni 90 a Londra, si sposta poi appunto nella ricerca per quanto riguarda la storicità, ma nello stesso tempo una grandissima innovazione del jazz, con l'intersezione elettronica del free jazz e del drum and bass. Loro sono un duo di produttori e musicisti, Ashley Wales e John Coxon, che incontreranno alcuni degli autori che ho citato in precedenza, il trombettista Vadada Leo Smith, Evan Parker al sax tenore, John Edwards e Mark Sanders per la ritmica, ed è proprio da qui che iniziamo a conoscere la Thirsty Ear Record, questa etichetta, questa label di ricerca che porta dal jazz al contemporaneo all'elettronica, esplorando dei territori veramente curiosi. A tra poco. scomposizione del suono contenuta in una ripetuta e reiterata melodia portata da The Spring Hill Jack per Thirsty Ear Record. Questo disco, The Sweetness of the Water, sono cinque suite che racchiudono diversi brani dove il duo di produttori che vi ho presentato in precedenza danno in un collettivo di musicisti molto raffinati la possibilità di esprimere una scrittura importante. Ne cito un altro che già conosciamo con Jazz Live, che è Tim Byrne, poi Matthew Shipp al pianoforte, che è un musicista sempre per questa label e non solo, quanto mai di ricerca. Questa ricerca che porta in questo caso un'attenzione all'impro jazz. Magari giovedì daremo più importanza all'aspetto elettronico e hip hop. Indubbiamente la curiosità per queste orecchie assetate e curiose, come dice lo stesso titolo della label, da modo di soddisfare con attenzione quello che è uno studio nella musica di ricerca più che mai approfondito. Questo è un altro lavoro che vi propongo, Songs and Theme, Spring Hill Jack, e vede Jay Spaceman ad esempio, per dire, alla chitarra, e Tony Marsh alla batteria. È un collettivo composto da questi due produttori che a loro volta mettono insieme a musicisti tendenzialmente jazz un incontro tra l'elettronica, la ricerca e la scrittura moderna del jazz. Al contrabbasso, e abbiamo anche alla tromba questa volta un musicista che proviene da una sorta di funky jazz, che è Kenny Wheeler. John Coxon and Huxley Wales, Spring Hill Jack, e un insieme di musicisti. Qui ho scelto tutto ciò per dare l'incontro tra i cartelloni, idealmente, tra Jazz Club Ferrara e Angelica, la rassegna da cui oggi avremo conferenza stampa, che ovviamente sarà portata poi in frequenza sui 103.1. Matthew Shipp, pianista, qui invece al Fender Rhodes, Evan Parr, Parker al soprano e al sax tenore per concludere questa mini playlist dal disco Amissed. Un po' di musica, terminata la piccola rubrica Altri suoni, grazie per l'attenzione. Inizieremo dopo la pubblicità con il Mood Groove di oggi, martedì 26 settembre 2023. Thank you.